Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Radio 24 Reportage. Festival Letterari, fra tradizione e nuove formule. Di Alessandra Tedesco. Primavera ed estate sono le stagioni tradizionalmente più gettonate per i festival letterari, anche se negli ultimi anni il calendario viene animato pure in altri periodi dell'anno. Causa Covid-19, molte manifestazioni quest'anno sono slittate all'autunno, ma settembre resta sempre il mese dei due festival letterari di riferimento, il Festival Letteratura di Mantova e Pordenone Legge. Se in questi casi le date sono state rispettate, i contenuti inevitabilmente devono cambiare, proponendo programmi che sono un mix fra eventi in presenza con pubblico contingentato, eventi online e nuove e originali iniziative. Come spiega Marzia Corraini, fondatrice e organizzatrice del Festival Letteratura di Mantova, che si svolgerà dal 9 al 13 settembre. Abbiamo fatto più linee del festival. Ci sarà un festival su carta, che è all'interno di questo libro Almanacco 2020, come se fossero proprio incontri del festival. Ci sarà una web radio che trasmetterà tutti i giorni del festival per 8-10 ore, si potrà seguire ovviamente sul proprio computer, ma anche in luoghi specifici della città di Mantova. Per esempio sarà udibile anche all'interno dell'università di Palazzo Te, come all'ospedale per esempio. Così come gli streaming, anche gli streaming saranno sul computer di ognuno del pubblico che vuole vederli, ma anche in luoghi della città dove potrà farlo con una piccola compagnia. Poi c'è invece il festival vero e proprio, quello diciamo più simile a quello degli altri anni, anche se è cambiato in questo senso, sia per i numeri, sia per le file, sia per la prenotazione dei biglietti, che sarà fatta soltanto attraverso internet. Noi però in biglietteria avremo sempre delle persone che aiuteranno chi non riesce a fare questo tipo di operazione, e in questo caso ci saranno piazze, quindi sempre all'aperto, con alcune situazioni nuove, la situazione di profezie, 4-5 incontri con personaggi di spicco di alcune materie che ci diranno dall'alto del balcone della piazza Santa Barbara, Palazzo Ducale, la loro profezia sul futuro, per esempio sull'architettura piuttosto che sul clima, piuttosto che in altri argomenti, e il pubblico sotto questo balcone nella piazza Santa Barbara, che con le distanze che ci assegneranno e in piedi per una mezz'oretta sentiranno queste profezie, come per esempio piazza Balcone, quindi piccole piazze, una nel centro della città, le altre in quartieri più periferici, con l'aiuto dei comitati di quartiere. Ci sarà su uno dei balconi un autore che fa il suo incontro, gli altri in altri balconi o giù nella piazza. Il furgone poetico, ancora per dire una delle ultime cose molto diverse, un furgone dove poeti saliranno e avranno un percorso all'interno della città e raggiungeranno loro il pubblico piuttosto che il pubblico raggiungere loro. Ci sarà un itinerario pubblicato, condiviso, e con piccoli gruppi riusciranno a parlare di poesia. Al Festival Letteratura di Mantova, la maggior parte degli eventi in presenza sarà con autori italiani, come Alessandro Barbero, Gianrico Carofiglio, Carlo Lucarelli, Michela Murgia, Lella Costa, ma ci saranno in presenza anche la palestinese Suad Amiri e l'israeliano David Grossman, mentre l'americano Paul Auster parteciperà in videocollegamento. Pordenone Legge, in programma dal 16 al 20 settembre, cambia un po' pelle. Innanzitutto lancia il modello del festival diffuso, quindi oltre al centro storico di Pordenone saranno coinvolti 7 comuni della provincia, tanti luoghi diversi dove ci saranno incontri con Massimo Recalcati, al quale è affidata l'inaugurazione, Susanna Tamaro, in una delle sue ormai rarissime uscite pubbliche, Paolo Giordano, Massimo Carlotto, Chiara Gamberale, Beppe Severgnini, molti stranieri in videocollegamento come Nick Hornby e David Quammen, tornato alla ribalta nel 2020 2020 per il suo saggio Spillover sui cosiddetti cacciatori di virus, mentre sarà in presenza Olga Tokarczuk, premio Nobel per la letteratura. Ma oltre agli incontri, Pordenone Legge punta anche su una web TV, come ci racconta uno dei curatori della manifestazione, Alberto Garlini. La formula che abbiamo cercato di mantenere è quella appunto degli incontri in presenza, quindi gli incontri si svolgeranno nelle location di Pordenone Legge, che saranno meno rispetto a quelle solite, e ci saranno ovviamente tutti i distanziamenti sociali, quindi una sala che magari teneva 500 posti quest'anno ne terrà 200, perché queste sono le regole. Però abbiamo cercato di mantenere l'idea dell'incontro in presenza. Detto questo, molti autori stranieri saranno in collegamento, però col pubblico presente in sala, quindi in sostanza l'autore sarà sul grande schermo, verrà intervistato da un intervistatore in sala e il pubblico potrà vedere l'incontro. Abbiamo poi cercato di potenziare, ovviamente, visto che il pubblico quest'anno arriverà in forma ridotta rispetto agli anni passati, quindi quest'anno abbiamo pensato appunto di aumentare in modo decisivo la parte di incontri che vanno sul web. Quindi ci sarà una vera e propria Pordenone Legge TV con un palinsesto, con vari incontri che verranno presentati nelle 5 giornate e molti altri incontri che verranno poi mostrati nei giorni successivi in una fascia oraria, appunto dalle 7 alle 9 di sera, sempre su Pordenone Legge TV. E con questo speriamo appunto che il pubblico che non riesce a entrare fisicamente possa comunque vedere Pordenone Legge a distanza. Questo per noi è anche un grande vantaggio, perché ci permette di aprirci a un pubblico che magari per tante ragioni, che potrebbe essere difficoltà di arrivare, anche problemi proprio fisici, magari di malattia o di difficoltà di spostarsi, eccetera, eccetera, potrà comunque seguire il festival. Ecco, e questo ovviamente non sostituirà l'incontro in presenza, che per ragioni ovvie, che noi siamo comunque degli esseri umani e degli animali, e la presenza fisica è molto importante, proprio anche a livello emotivo, proprio anche a livello proprio più base di percezione di un'esperienza. Ecco, non sostituirà ovviamente questo aspetto dell'incontro con l'autore, ma di certo può essere qualcosa che compete un'esperienza, tenendo conto che per noi che siamo anziani, io principalmente, esiste una differenza tra incontro in presenza, cosa che avviene nel reale, cosa che avviene nel virtuale, ma per un ragazzo più giovane sicuramente questa differenza è molto più sfumata, quindi quelle che noi percepiamo come una barriera, come una differenza qualitativa di esperienza, in realtà non è più così. La spinta verso nuove forme, soprattutto verso gli eventi online, non è dunque semplicemente un ripiego, ma può essere una risorsa per il futuro, come spiega Marzia Corraini del Festival Letteratura. Questo sicuramente, ed era già una volontà che noi avevamo negli anni passati, è una scuola che abbiamo fatto per cambiare il festival. Ovviamente non stravolgere il festival, ma cambiare il festival con delle situazioni, iniziative, letture nuove. Per esempio, la situazione di Profezia o di Piazza Balcone sicuramente ci insegnano delle cose, vedremo appunto gli anni prossimi come sarà. Sicuramente per noi è stato complicato, ma il lavoro è stato molto interessante. Non so se dire positivo visto la situazione, ma certamente indietro non si torna. Festival di tutti i tipi, come si sa, muovono chi più chi meno l'economia locale, hotel, ristoranti, bar, negozi, ma quest'anno, con una presenza di pubblico decisamente inferiore rispetto agli anni precedenti, l'impatto sul territorio sarà diverso. Sentiamo ancora Alberto Garlini di Pordenone Legge. C'è sicuramente questo aspetto dove, insomma, una presenza di migliaia e migliaia di persone di certo muove l'economia, perché muove ristoranti, muove bar, muove alberghi, muove tutto quello dell'indotto. E questo è sicuramente un aspetto che quest'anno sarà ridotto. Non sarà tolto, ma sicuramente ridotto. Adesso poi la quantificazione di questa riduzione è difficile prevederla in questo momento, però diciamo sicuramente qualcosa di meno ci sarà. E l'altro aspetto invece che è altrettanto importante per la ricaduta economica è quello del nome di Pordenone, cioè come un sistema economico Pordenone viene recepito a livello di immagine, a livello nazionale e internazionale, e di certo questo rimarrà intatto, perché insomma la massa di articoli che non riusciamo a muovere, il tipo di immagine che diamo della città grazie al festival, sicuramente anche quest'anno ci sarà, con in più questa opportunità, come dicevo prima, della Pordenone Legge TV, di fare arrivare questa idea di città questa idea di sistema anche a persone che magari non l'hanno mai frequentato, non avevano forse nemmeno intenzione di frequentarlo, che magari se lo trovano su una diretta Facebook per puro caso, magari gli piace e lo seguono. Quindi allora sicuramente qualcosa si perde da una parte, e speriamo che sia poco, ma sicuramente qualcosa ci sarà, e dall'altra parte invece credo che quest'altro aspetto, che secondo me è altrettanto importante, perché il valore economico di un luogo o comunque di un territorio viene dato anche appunto dall'idea, dall'immagine, diciamo, sistemica che riesce a dare, questo spero che rimanga invece intatto. La parola d'ordine dunque è ottimismo, guardare avanti e prendere quello che di buono l'emergenza sanitaria ci ha costretto a sperimentare. Sulla stessa linea anche altri eventi culturali che hanno cambiato formula, dal Festival della Mente che si sta svolgendo in questi giorni a Sarzana, in provincia di La Spezia, a Tao Book slittato a ottobre dall'1 al 5 a Taormina, e poi la rassegna letteraria di Vigevano che si svolgerà in forma ridotta a metà ottobre. Infine, solo per il 2020, dall'1 al 4 ottobre a Roma ci sarà Insieme, una grande manifestazione dedicata al libro e alla lettura, con la presenza di circa 200 editori, grandi e piccoli, e una serie di incontri con gli autori sia in presenza che in streaming. Un'idea che nasce dalla collaborazione e dall'alleanza fra tre manifestazioni romane: Letterature, Libri Come, a marzo era saltata l'edizione 2020, e Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria che ha cancellato il suo tradizionale appuntamento di dicembre. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite, suoruba.it.